Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. E allora, dove ci eravamo lasciati, anche se il programma, come sapete, è stato condotto ottimamente dal nostro Simone Spezia, inutile raccontarvi cosa è successo in queste ultime settimane, meglio raccontare cosa è successo in queste ultime ore, perché questa mattina si sperava, soprattutto a Milano, che sarebbe stato l'inizio di un'altra settimana, e devo dire i rialzi, per chi si fosse appena messo in collegamento, per chi non ha seguito i nostri aggiornamenti, erano stati consistenti. Milano è arrivata a guadagnare oltre il 3%, e tra l'altro è arrivata al 3,4%, poi con titoli sospesi per eccesso di rialzo, titoli bancari sospesi per eccesso di rialzo, poi lentamente il ritracciamento, come dicono quelli che se ne intendono, quindi torna sui livelli della chiusura di venerdì. A metà giornata, a mezzogiorno, Milano è già a livello di parità, quindi variazione praticamente pari allo zero, con le altre borse europee che continuano però a cedere. Londra infatti perdeva quasi il 2%, Francoforte era arrivata a perdere anch'essa quasi il 2%. E poi lentamente il calo fino all'apertura di Wall Street, che ha condizionato tutti. Wall Street sta perdendo adesso il 2,33%, ma è arrivata a perdere anche il 3%, ma soprattutto ha fatto impressione l'apertura del Nasdaq, meno 3% subito in apertura, e poi adesso si mantiene a quota meno 3,06%. Leggermente migliori dati rispetto a mezz'ora fa, ma di poca cosa. E quindi bocciatura americana sul accordo sul debito, e soprattutto le conseguenze del taglio del voto da parte di Standard & Poor's al debito americano, che perde la tripla A. Tra l'altro oggi Standard & Poor's, poco prima dell'apertura del mercato, l'agenzia di rating ha detto che l'accordo sull'aumento del tetto del debito è stata una debacle politica. Queste sono le parole dell'agenzia che dà il voto ai debiti dei vari paesi, e ha aggiunto Standard & Poor's: nulla all'orizzonte per gli Stati Uniti sembra indicare un ritorno alla tripla A. E di questo ringraziamo immediatamente Standard & Poor's. Potevamo non mettere un gufo ferragostano, perché insomma Standard & Poor's ci dà una mano. Una volta era a metano, adesso è Standard & Poor's, perché poi aggiunge, ha tagliato anche il voto al debito di Fannie Mae e Freddie Mac, i due colossi delle ipoteche negli Stati Uniti. E tra l'altro c'è un'azione legale del più grosso gruppo assicurativo americano, di mutui americano, che è AIG, nei confronti di Bank of America, 10 miliardi l'accusa di perdite causate sui mutui. La conseguenza è che Bank of America ha aperto subito con un tonfo a Wall Street, meno 8%. Se vogliamo trovare una notizia rispetto alle settimane scorse, va detto che Milano perde la metà rispetto alle altre borse, perde adesso l'1,5%, Parigi appunto meno 3,60%, Francoforte meno 3,90%. Chissà, lo dico con il massimo rispetto, che i problemi di Francoforte in borsa non così diano una scossa alla Germania. Di questo parleremo in apertura, perché il tema oggi sui giornali, lo avrete visto, è Italia commissariata. C'è un fondo di Mario Monti, c'era ieri sul Corriere della Sera, il Podestà forestiero. In sostanza, qual è la linea di fondo? È che l'invito di Angela Merkel e di Nicolas Sarkozy all'Italia a anticipare il pareggio di bilancio al 2013, la lettera ancora sconosciuta nel suo testo della Banca Centrale Europea al governo italiano. Insomma, l'Italia appare un paese commissariato dal punto di vista delle scelte di politica economica. Non so se sia un male o un bene, ma sicuramente è un tema. E vi arriveremo, ma che il problema sia specifico nel caso italiano, ma generale nel caso delle borse europee e americane, lo dimostra il fatto che poco fa è uscita la notizia, qualche minuto fa, che il presidente Barack Obama di nuovo farà una dichiarazione alle 13 ore americane, alle 19 ore italiana. Immaginiamo anche e soprattutto dopo l'apertura dei mercati, non era infatti attesa, e dopo le dichiarazioni di oggi di Standard & Poor's. Verrebbe la voglia di dire agli americani, chi di agenzie di rating ferisce, di agenzie di rating perisce, non perisce, ma insomma. Segnalo che comunque, questo per darvi anche il nervosismo del mercato e il fatto che ad agosto comunque a Milano e anche a Francoforte i titoli e gli indici si muovono con minor soldi, con meno liquidità, visto che molti operatori sono chiusi. Milano adesso sta recuperando molto, perde lo 0,94%, ha recuperato praticamente 2 punti in 10 minuti, quando è iniziato il programma. E anche l'America sta recuperando tantissimo, perde adesso l'1,87%. Vedremo come sarà la chiusura. Altre notizie in breve. L'oro, nuovo record in Asia. Asia che per inciso stamattina ha chiuso tutto in negativo, Shanghai pesante, ma non solo, anche il Giappone. Dicevo, l'oro ha toccato in Asia un nuovo record, i 1.702 dollari l'oncia. Per la precisione, visto che già lo chiedete al 349-238-6666, Shanghai ha perso il 3,80%, questa mattina Tokyo il 2,20%. Il petrolio è in calo, è a 82,6 dollari al barile. Non disturberemo, abbiamo ricevuto molti messaggi sul tema, non disturberemo il presidente dell'Unione Petrolifera Italiana De Vita, che è in vacanze, immaginiamo. Facciamo solo notare che alla pompa questo calo del petrolio si vede molto poco. La benzina infatti è più cara del 2,5% rispetto a un anno fa, da luglio 2008, scusatemi, mentre il petrolio calcolato in euro è sceso del 37%, e il prezzo del barile è sceso in dollari del 44%, in euro del 37%, ma i misteri di Fatima del mercato petrolifero fanno sì che la benzina costi il 2,5% in più rispetto a questi valori. E lo so, è un nostro chiodo fisso, ma non ci arrendiamo. Come va lo spread? Allora, la differenza tra quanto costa finanziare il debito all'Italia e quanto costa finanziare il debito alla Germania è scesa sotto i 300 punti. Adesso vediamo anche l'ultimo aggiornamento. È arrivata a 288 punti per Madrid, 295 quelli italiani. Ripeto, so che su questo forse non sono molto popolare, non c'è nessun motivo, anche qui col massimo rispetto verso la Spagna, ma non c'è nessun motivo per cui il rischio misurato sull'Italia debba essere più alto rispetto al rischio misurato sulla Spagna, nessun motivo economico. Abbiamo un export che va benissimo mentre la Spagna non ce l'ha praticamente, non abbiamo avuto nessuna difficoltà sul settore immobiliare mentre la Spagna ha avuto una bolla vera e propria, non abbiamo problemi, perlomeno che si sappia, con le casse di risparmio, con le banche regionali, mentre la Spagna ha grossi problemi con le casse di risparmio regionali. Insomma, non si capisce perché l'Italia debba essere più a rischio, anche il risparmio italiano è ben più alto di quello spagnolo. Evidentemente la speculazione si muove su altri ragionamenti, che sono ragionamenti di carattere politico. E ci collegheremo dopo con gli Stati Uniti. Ancora due notizie in breve. L'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere, lo ha stimato infatti Luigi Magistro, che è il direttore generale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che stima per il 2011 un incasso di oltre 11 miliardi di euro dalla lotta all'evasione. Questo nel momento in cui parte anche la cosiddetta campagna estiva, controlli a tappeto su stabilimenti balneari, yacht e VIP. Brutta notizia invece per mutui e prestiti alle imprese. Ritocco verso l'alto a giugno per i tassi applicati dalle banche italiane ai mutui delle famiglie e ai prestiti alle imprese. I dati sono della Banca d'Italia, si riferiscono al 30 giugno 2011. Il TAEG medio, quindi tutti i costi accessori e dei mutui a tasso fisso applicati ai nuovi prestiti, era pari al 3,44% contro il 3,38% di maggio. Quello per il credito al consumo passa dall'8,92% al 9,14%. E sull'evasione arriva anche uno spot, una pubblicità che organizzata e realizzata dal Ministero dell'Economia assieme all'Agenzia delle Entrate, che saranno trasmessi da domani, 9 agosto, TV ma anche radio. Lo slogan sarà: chi vive a spese degli altri danneggia tutti. Battere l'evasione è nel tuo interesse. Vedo già che c'è chi scrive: chi vive a spese degli altri danneggia tutti, vale anche per la classe politica. No, è un po' troppo facile così. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, il commissariamento dell'Italia, ammesso che sia un male, ammesso che sia la prima volta, ammesso che ci sia questo commissariamento, sicuramente è tema di dibattito. Allora, volete che faccia autocritica su Tremonti? Assolutamente no. Abbiamo elogiato il ministro negli anni scorsi perché, e devo dire, eravamo anche in buona compagnia, parlo a livello europeo della Banca Centrale, perché la tenuta dei conti pubblici italiani nel 2008, 2009, 2010 c'è stata, punto. Noi di quel Tremonti lì parliamo, non del resto. Mario Monti, ex commissario europeo, presidente della Bocconi, scrive sul Corriere della Sera di ieri. Il titolo è Il podestà forestiero e in sostanza dice: il governo e la maggioranza, dopo aver rivendicato la propria autonoma capacità di risolvere i problemi del paese, dopo aver rifiutato l'ipotesi di un impegno comune con altre forze politiche per cercare di sollevare un'Italia in crisi e in sfiducia, hanno accettato in questi giorni, nella sostanza, un governo tecnico. Le forme sono salve, i ministri restano in carica, la primazia della politica è intatta, ma le decisioni principali sono state prese da un governo tecnico sovranazionale e si potrebbe aggiungere mercatista, con sedi sparse tra Bruxelles, Francoforte, Berlino, Londra e New York. Ambasciatore Sergio Romano, buonasera. Buonasera. Le chiederei leggermente di alzare il tono perché perdiamo un po' in qualità. Allora, siamo diventati un paese sotto tutela? La domanda è secca, ma mi sembra che non ci sia motivo per girarci attorno. Ma io credo che già nella filosofia italiana dell'Europa, agli inizi, negli anni 50, ci fosse la convinzione che questo paese le cose avrebbe potuto farle soltanto se in qualche modo le fossero state imposte, non dall'esterno, non da un potere autoritario a cui l'Italia non partecipa, ma da un potere collegiale di cui l'Italia è parte e che con la sua autorevolezza poteva far fare alla classe politica italiana ciò che da sola non sarebbe riuscita a fare. Vede, quando si parla di quello che sta accadendo in questi giorni, devo dire che anch'io avrei preferito una decisione spontanea del governo italiano, mi sarebbe piaciuto che il governo italiano fosse arrivato a quelle conclusioni senza aspettare che glielo dicesse qualcun altro. Però ricordo che nel 1992, quando Giuliano Amato andò da Kohl e cercò di essere aiutato nella lotta contro la speculazione, che in quel momento aveva di mira due grandi valute europee, la sterlina e la lira, Kohl gli disse con molto garbo, con grande gentilezza, anche con grande affetto peraltro, che la Germania non avrebbe fatto nulla, avrebbe difeso il franco francese ma non avrebbe difeso la lira. Oggi invece noi assistiamo a una situazione in cui la Banca Centrale Europea è diventata la banca di ultima istanza dell'Italia. Io ne sono contento e francamente un anno fa non mi sarei aspettato dalla Banca Centrale Europea un gesto come questo. Voglio dire, dietro tutto questo turbinio di notizie cattive, di scontri, di polemiche nazionali e molto preelettorali per così dire, c'è un fatto nuovo, l'euro sta diventando la moneta di tutti, perché se a un certo punto la Banca Centrale Europea mi compra i bond, e se lo fa dopo aver evidentemente deciso al vertice della Banca Centrale Europea, con l'accordo della Repubblica Federale, di agire in questo senso, beh, tutto sommato lo valuterei come uno straordinario progresso. Quanto poi al fatto che la politica economica venga dettata da altri, boh, mi sembra che sta peggio Obama in questo momento, perché se lei ha letto il comunicato di Xinhua, l'agenzia di stampa cinese, in cui la Cina dice, perché quella è la Cina che parla, l'agenzia di stampa cinese è soltanto un portavoce, dice: beh, è ora che l'America si renda conto che così non può vivere, che le sue spese militari, le sue spese assistenziali, deve rendersi conto che sono finiti i bei giorni in cui poteva prendere a prestito denaro in giro per il mondo e rimediare in questo modo ai pasticci di cui era responsabile. Questo è il testo del comunicato dell'agenzia di stampa cinese. A me sembra che bruci molto più della lettera di Trichet e di Draghi. Sì, devo dire, e apro un inciso, ne parleremo dopo, degli Stati Uniti, che mai si sarebbe immaginato, ambasciatore Romano, 10 anni fa, una lettera così di reprimenda, così da bacchettata sulle dita dei cinesi e degli americani. Lo si può immaginare adesso, perché un terzo del debito americano è in mano cinese, e gli dicono proprio: smettetela di vivere sopra le vostre possibilità. Un po' come i tedeschi fanno con noi, diciamo, mutatis, mutatis mutandis. Però mi faccia chiedere un'altra cosa. Vabbè, lei dice: non c'è niente di cui scandalizzarsi, anzi, apprezziamo il fatto che mentre ai tempi nel 92 la Germania non salvò la lira, adesso il fatto che c'è l'euro obbliga, tra virgolette, anche la Germania a prendersi in carico l'Italia, mentre senza euro non sarebbe successo. Devo dire che con una borsa di Francoforte che oggi perde 4,20% e Milano perde 1,5%, secondo me anche i tedeschi hanno fatto male i loro conti. E le vorrei chiedere, poi torniamo sull'Italia, non c'è un po' di miopia in questa idea tedesca di poter comunque navigare da soli in Europa? Se la casa brucia, le stanze, a meno che non siano veramente, veramente isolate, insomma, difficilmente si salvano. Vedi, il 4,20% della borsa di Francoforte, io lo considererei la dimostrazione del coraggio con cui la Germania ha finito per rendersi conto che la sola cosa da fare era quella di proteggere l'euro aiutando l'Italia. Quindi non so se avesse fatto bene o male i suoi conti. So che sta pagando consapevolmente il prezzo di una politica a cui è giunta, in qualche modo, dopo aver provato a non starci, a non essere responsabile. Insomma, credo che si possa dire della Germania quello che Churchill diceva degli Stati Uniti. Diceva degli Stati Uniti che fanno sempre la cosa giusta dopo averle provate tutte le altre. E anche la Germania in un certo senso le ha provate tutte prima di fare la cosa giusta, ma alla fine fa la cosa giusta nonostante questo comporti un prezzo. Io credo che un comportamento come questo della borsa di Francoforte se lo fossero aspettato, e mi chiedo del resto se quello che accade alle borse europee sia esclusivamente e soprattutto il risultato della difficoltà dell'euro o non anche della grande crisi americana, del declino della potenza americana nel mondo. Un altro elemento che è emerso invece da un altro articolo su Sole 24 Ore di Luigi Zingales, che torna su un tema a lui caro, e dice in sostanza: di fatto l'euro è fallito come progetto concertativo, bisognava prima fare l'Europa, l'Europa politica e poi fare l'Europa monetaria, abbiamo fatto il contrario e quindi l'euro non ha retto le divisioni, è stato preda di speculazione perché i vari paesi più forti, Francia, Germania, Italia, non erano d'accordo. Sarebbe meglio prendere atto di tutto questo e coniare due valute, l'euro del nord, che sostanzialmente sarebbe una riedizione del marco, e l'euro del sud, che permetterebbe ai paesi del sud di svalutare, come si poteva fare nel 92, e quindi almeno dare un'iniezione all'economia avendo una valuta più bassa che ti permette di esportare meglio. Ma questa è la soluzione giusta se la premessa è vera, cioè se la premessa l'euro è fallito è una premessa esatta. A questo punto io non lo so se sia fallito, ho l'impressione invece che si continui a fare il possibile per cercare di salvarlo, perché ci si rende conto, e Zingales stranamente non sembra porsi il problema, che la crisi dell'euro comporterebbe delle conseguenze che nessuno di noi in questo momento è in grado di calcolare e che responsabilmente dovremmo prendere in considerazione. Vede, ho qualche volta l'impressione che le cattedre universitarie siano in qualche modo coperte da geniali alchimisti, a cui in qualche modo la ricerca dell'oro offusca un po' il giudizio su altre questioni che sono le questioni di ogni giorno, di cui invece dovremmo renderci responsabilmente conto. Siamo certi che la crisi dell'euro non comporterebbe delle, soprattutto in questo momento, nel momento della crisi del dollaro, non comporterebbe delle conseguenze incalcolabili, degli effetti disastrosi. Sappiamo già che c'è un troppo denaro in giro per il mondo, ne hanno stampato troppo, il denaro non sa dove andare e molto spesso gioca naturalmente in modo qualche volta irresponsabile. Sappiamo che cosa accadrebbe? Non lo so, ho l'impressione che invece giorno dopo giorno con grande e snervante lentezza questa povera Unione Europea ha cercato di mettere insieme delle istituzioni che dovrebbero rappresentare il rimedio per le crisi future e poi i paesi che non volevano far nulla alla fine hanno finito per fare qualche cosa, la Germania che si era così tenuta indietro con un certo anche disprezzo di cui aveva dato prova nei confronti della Grecia alla fine ha pagato, ha consapevolmente pagato, ma tuttavia in questo particolare momento, vedendo l'impegno dei paesi dell'Unione Europea e della Banca Centrale Europea, rifiuto di essere pregiudizialmente pessimista. Quindi lei dice, nonostante tutti gli errori commessi, sintetizza in maniera un po' brutale, comunque faticosamente, ma questo euro, passando anche come fanno un po' i bambini quando crescono, attraverso anche prove difficili, errori, ammissione di colpa, sta crescendo, si sta mantenendo in vita e sta dimostrando che esiste soprattutto. Lei è curioso di sapere il contenuto della lettera della Banca Centrale Europea al governo Berlusconi? Certo che sono curioso e chi non lo sarebbe. Perché Bossi oggi ha confermato che la lettera c'è, il PD chiedeva appunto che venisse resa noto il contenuto. Certo, devo dire che il contenuto posso anche immaginarmelo. Ma comunque sono curioso, non tanto per le cose che... E lei cosa si immagina, mi scusi? Ma mi immagino anzitutto che abbiano chiesto esattamente quello che alla fine Berlusconi e Tremonti hanno dovuto annunciare e forse molto di più, perché a questo punto naturalmente vorremmo che anche noi, e lo abbiamo chiesto del resto più volte, vorremmo che qualche cosa di più venisse fatto. Quello che mi interesserebbe naturalmente è che interessa a tutti, interessa immagino anche l'opposizione, soprattutto l'opposizione, e lo stile con cui questa lettera è stata redatta. Cioè se era da maestrina che ti bacchetto o se era da pari a pari? Ma direi che molto probabilmente da pari a pari, non c'è niente da fare, non è immaginabile che Trichet non si renda conto che per tutti i governi prendere delle decisioni impopolari è difficile. E molto probabilmente la lettera è utile proprio perché dovrebbe o potrebbe, speriamo che così accada, costringerci a prendere decisioni impopolari. Allora, mentre nel frattempo negli Stati Uniti Bank of America sta crollando, -16%, e qui l'Europa e l'euro c'entrano gran poco, Citigroup perde l'8%, attenzione su Bank of America, come ricordavo pesa anche la richiesta di un risarcimento enorme, il danno causato secondo AIG sarebbe di 10 miliardi a Bank of America, però 16% è tanto anche alla luce e nonostante quella notizia. Vorrei con lei capire due ultime cose, una riguarda l'Italia e una gli Stati Uniti. Allora, lei ha scritto sul Corriere della Sera di qualche settimana fa e anche recentemente, bene ma non basta, insomma, chiedendo al governo di fare di più come spinta anche di riforma. Domanda molto secca, noi in questo programma le riforme in generale, le liberalizzazioni le abbiamo sempre sostenute, ma perché, io lo chiedo a tutti gli ospiti, secondo lei non si è riusciti a impostare una riforma a costo zero come quella sulle liberalizzazioni, che almeno libera energie? Anzitutto le liberalizzazioni sono state fatte in un certo periodo della storia economica europea. No, ma parlavo del governo Berlusconi dell'ultimo. Intendevo dire che sono state fatte, ma non sempre sono state fatte bene. Devo dire che la storia delle liberalizzazioni ha anche qualche brutta pagina. Uh-huh. Per esempio la liberalizzazione delle aziende municipalizzate è una brutta pagina della storia economica e politica di questo paese. Quindi anziché chiedere liberalizzazioni, le chiederei, per così dire, con un certo criterio, con una certa, con qualche condizione in più rispetto a quella che la semplice parola può in qualche modo annunciare. Poi osservo che questo è un paese in cui tutti i governi del centrodestra in particolare, non hanno mai avuto il coraggio di spezzare la volontà delle corporazioni che in qualche modo presidiano alcuni settori della vita nazionale, vivono di rendite consolidate e non vogliono mai rinunciare a ciò che hanno conquistato. È un paese di corporazioni, lo è sempre stato. Per certi aspetti il fascismo aveva cercato di costituzionalizzarle, di istituzionalizzarle, e noi ci troviamo oggi in una situazione in cui abbiamo ereditato sia quel tanto di corporativismo istituzionalizzato che il fascismo aveva creato, sia la struttura antica, più antica, quasi medievale delle nostre corporazioni. Conosce un altro paese, lei, dove il presidente della Confindustria sia il ministro degli industriali? No, personalmente. Il presidente della Confindustria è una figura creata dal regime fascista, il quale aveva per l'appunto cooptato il presidente della Confindustria all'interno del Gran Consiglio del Fascismo. Adesso, grazie al cielo, il Gran Consiglio del Fascismo non c'è, e il presidente della Confindustria però è cooptato all'interno delle istanze, delle occasioni, dei momenti in cui l'economia italiana è gestita collegialmente. La stessa cosa è accaduta con i sindacati. È un paese delle corporazioni questo, le corporazioni sono incapaci di governare, ma straordinariamente capaci di impedire che si governi. E questo è un male nostro, voglio dire. Che sì, no, guardi, personalmente penso che però anche la maggioranza parlamentare sia importante. Allora, il governo Prodi, che ha avuto qualche merito, l'abbiamo spesso ricordato, il lavoro di Padoa-Schioppa, che poi, a mio avviso, ha continuato anche Tremonti, ma sui conti pubblici, sull'avanzo primario, era un governo debole fin dall'inizio, da una maggioranza parlamentare quasi inesistente. Questo governo però, ambasciatore Romano, aveva ed ha una maggioranza parlamentare enorme, la più grande della storia repubblicana. Forse questa è una colpa in più sulle mancate riforme. Assolutamente è una colpa in più, ma quanti avvocati sono presenti? Guarda, non mi pare di avvocati, ho avuto una discussione con Paniz in diretta proprio sulla minaccia che fece di bloccare l'intera finanziaria con i mercati che stavano abbattendo l'Italia se passava la riforma dell'ordine, cioè l'abrogazione di fatto dell'ordine degli avvocati. Un'altra e l'ultima domanda: secondo lei invece l'errore più grosso di Barack Obama, visto che poi ne parleremo, è stato quello di non bastonare, come noi in qualche modo modestissimamente gli chiedevamo, Wall Street, riformandola, quando i banchieri americani erano col cappello in mano nel 2008-2009, chiedevano soldi per essere salvati e forse di restare schiavo anche del suo ministro del tesoro Timothy Geithner, molto vicino a Wall Street, e adesso ne paga le conseguenze? C'è una straordinaria responsabilità di Obama, indubbiamente ciò che ho detto del governo italiano si può dire di Obama, per esempio, per il suo rapporto di timidezza quasi nei confronti di Wall Street. Quello sarebbe stato veramente il momento per colpire Wall Street, ma qui credo che la spiegazione non è più politica, è in qualche modo più caratteriale, più addirittura direi antropologica. Vede, non è facile per un nero essere presidente degli Stati Uniti. Credo che alla fine questo vada in qualche modo tenuto presente. Quell'uomo è stato brillantemente, ha fatto una brillante campagna presidenziale, è riuscito a vincere, ha avuto il vento che tirava, che soffiava di poppa, per così dire, perché dopo le disastrose esperienze della presidenza del predecessore, naturalmente ha potuto contare anche su quel tanto di desiderio di novità che era presente nella società americana. Ma è un nero alla testa di un paese che continua ad essere mentalmente bianco e deve in qualche modo continuamente guardarsi le spalle. Io credo che molte timidezze di Obama siano dovute a questo fattore che, confesso, non riesco né a quantificare né a in qualche modo a giustificare logicamente, ma temo che ci sia molto di questo. Ci chiedono gli ascoltatori, Sergio Romano, se, così concludiamo, in realtà, tornando a quello che io dicevo all'inizio, non c'è nessun motivo per cui l'Italia paghi un prezzo più alto rispetto alla Spagna. Un motivo c'è, e diciamo due settimane fa è un motivo politico, però vorrei sentire anche la sua opinione. Cioè, se io guardo lo spread, la differenza tra quanto costa l'Italia a finanziare il suo debito e quanto costa la Germania, lo spread resta basso fino al 21 giugno, cioè all'appuntamento elezioni amministrative, ballottaggi e poi referendum, e da lì inizia a partire verso i 200 e supera per la prima volta i 200 punti. E lei è d'accordo con chi dice che in questo momento, più che il debito al 120% del PIL, che ce l'avevamo anche due mesi fa, e più che altre variabili di carattere macroeconomico, si speculi sull'Italia per la debolezza politica dell'esecutivo? Può darsi che l'esecutivo abbia una parte in tutto questo. Certamente il governo in questo momento è meno credibile di quanto dovrebbe essere. Però io ho l'impressione che i dubbi, le diffidenze nei confronti dell'Italia da parte di questo mercato, in questo particolare momento, in una situazione in cui tutto in qualche modo sembra ingovernabile, è perfettamente giustificato. Non dimentichiamo che il debito pubblico spagnolo è grosso modo di poco superiore al 60%, il debito pubblico italiano è esattamente il doppio. Noi non avremo mai una bolla immobiliare, non possiamo avere una bolla immobiliare perché l'80% delle case sono di proprietà di coloro che vi abitano, e questo rende una bolla immobiliare in Italia estremamente improbabile. Ma non c'è ministro del tesoro italiano che nel momento in cui comincia a scrivere il bilancio dell'anno successivo non debba scrivere nella colonna rossa gli 80 miliardi di euro che gli sono necessari per pagare il servizio del debito. Certo. E allora, voglio dire, uno che guarda dall'esterno e dice... Beh, questo problema la Spagna non ce l'ha, l'Italia ce l'ha, e alla fine, voglio dire, è davvero sorprendente che diffidi un po' di più dell'Italia. Grazie a Sergio Romano. La pagina di mercato è una pagina che è soprattutto americana. Due risposte brevissime. Allora, c'è chi dice, ma questo lo sappiamo, che difendiamo troppo il governo e Tremonti, c'è chi dice che invece siamo faziosi perché accusiamo il governo la politica del governo di avere fatto aumentare gli spread con la Germania mentre il tema sarebbe solo il debito europeo. Io faccio notare, ripeto, tabella alla mano, che il primo di giugno di quest'anno, quindi stiamo parlando di due mesi fa, gli spread italiani erano 172 punti con quelli tedeschi, e c'erano 57 punti di differenza con la Spagna. Tutto inizia a partire come aumento di spread dal 20, dopo il referendum, quindi dal 23 giugno, 203 punti, per la prima volta sopra i 200 punti, 212, 209, e poi si riparte, e questa è storia più recente, con i 220 punti dell'8 luglio. È chiaro che il debito italiano è un fardello pazzesco, ma questo debito al 120% c'era anche a maggio, eppure gli spread erano assolutamente sotto controllo. Ci spostiamo in America prima dei mercati, e saluto intanto Mario Platero in collegamento da New York. Buonasera Mario. Buonasera. Corrispondente degli Stati Uniti per il Sole 24 Ore. Oggi la notizia la fa Wall Street, non solo per il 2,70% che sta perdendo, ma anche per Citigroup meno 8% e Bank of America meno 16%. È la bocciatura alla perdita della AAA o è la bocciatura all'accordo sul debito? Ma direi che la dinamica è un po' la stessa. Abbiamo visto le banche italiane perdere una gran quantità di terreno nel momento in cui il debito italiano è peggiorato, quindi c'è un collegamento sicuramente, ma in questo momento quello che sta capitando è che ci si rende conto che la crescita non riesce a ingranare, e quindi il problema vero resta quello della crescita più che quello del debito, paradossalmente. L'accordo politico sul debito è stato un accordo povero, lo sappiamo tutti, c'è stato il declassamento di Standard & Poor's come conseguenza, ma qual è il paradosso? Che mentre da noi gli spread, come tu stesso ricordavi qualche minuto fa, sono aumentati, in America paradossalmente i bond oggi si sono apprezzati, i rendimenti sono leggermente diminuiti, quindi c'è stato un effetto zero di questo declassamento di Standard & Poor's. E perché la borsa perde? Direi che la dinamica è chiara, si sta scontando il double dip, si sta scontando la recessione, quindi ci si butta sui bond perché comunque al di là del giudizio di Standard & Poor's, il debito americano resta straordinariamente forte e credibile, e mentre invece se l'economia peggiora, allora a quel punto tutto il quadro su cui è appoggiato la dinamica degli ultimi 12 mesi da un punto di vista di investimenti crolla, cambia, e quindi stiamo vedendo queste reazioni molto brutte sulle banche, stiamo vedendo comunque una reazione pessimista sul mercato azionario che continua a seguire quello che è successo già la settimana scorsa. Mario, quindi tu stai dicendo che in sostanza si iniziano a prendere le misure in America verso il temutissimo double dip, quello che pensavamo di avere evitato, era solo rimasto Rubini a prevederlo, cioè la doppia caduta, una prima caduta che è quella del 2008, il recupero e poi una seconda caduta? Sì, c'è qualcosa che spaventa che l'economia americana ha ricevuto iniezioni di liquidità piuttosto poderose, quest'anno soltanto nei primi sei mesi ci sono stati circa 1.100 miliardi di dollari di liquidità che sono entrati a sostenere l'economia, perché dobbiamo sommare i 600 miliardi di dollari del QE2, del Quantitative Easing 2 della Federal Reserve, ai circa 500 miliardi di dollari per i primi sei mesi di quest'anno di una diminuzione delle trattenute in busta paga per i lavoratori americani sui contributi sociali. Quindi questo ha restituito denaro al consumatore americano, stiamo parlando di 100 milioni di americani, un terzo delle famiglie americane, che avrebbero dovuto spenderli questi soldi, circa 2.000 dollari all'anno per famiglia, quindi una cifra piuttosto consistente. Ecco, questa doppia iniezione non ha dato i risultati, perché in questi primi sei mesi la crescita media dell'economia americana è stata dello 0,8%, doveva essere del 2,2% in più, e quindi questo ha spaventato, ci si rende conto che c'è una situazione di fondo in cui è cambiato il modello, l'economia americana non riesce a crescere, sì, soffre del fardello di questo debito, si dice che al di sopra di 90% del rapporto disavanzo PIL le economie in genere paghino dei punti percentuali di crescita, quindi faticano a crescere, e questo sta capitando anche per l'America. Quindi se con questa iniezione di liquidità non si è riusciti a crescere, ci si domanda cosa succederà nella seconda metà dell'anno, o comunque a partire dal 2012, quando non ci saranno più questi strumenti di liquidità, perché la deduzione in busta paga scadrà alla fine di quest'anno, il QE2 è finito a giugno. Ecco, l'unica cosa potrebbe esserci la Fed che arriva con un QE3, e su questo ci stanno pensando e sono pronti a farlo, però finora, come abbiamo visto, ha dato pochi risultati. Mario Platero, quanto secondo te sta rimpiangendo, l'abbiamo chiesto prima a Sergio Romano, Barack Obama il fatto di non essere intervenuto con una riforma radicale di Wall Street? Le banche d'affari americane nel frattempo sono tornate a fare utili miliardari, a darsi bonus ai manager milionari. Quanto sta rimpiangendo non aver fatto la riforma quando poteva, nel 2009, quando erano in ginocchio, quando le banche avevano bisogno dei soldi di Barack Obama, per poi ritrovarsi con la Cina che bacchetta le mani e dice basta spendere più di quello che potete permettervi? Allora, guarda, io non credo che il problema sia la riforma finanziaria. Il problema su cui probabilmente Obama in questo momento sta dando le capocciate contro il muro è la riforma sanitaria. È una riforma sanitaria costosissima sia sul piano politico che su quello economico. Quelli sono i veri numeri che contano, perché una riforma sanitaria che va a costare migliaia di miliardi di dollari è quella che va a pesare sulle finanze del paese e sull'economia. La riforma del settore finanziario, diciamo così, riempie i primi titoli delle pagine, fa sensazione che qualcuno guadagni miliardi di dollari, una gran quantità di soldi, quando magari altri sono disoccupati, però da un punto di vista di impatto economico, l'impatto forte negativo c'è stato da questa riforma, la riforma sanitaria, diciamo. Che tra l'altro i repubblicani stanno cercando in qualche modo di cambiare, insomma, di smantellare piano piano, vedremo se ci riusciranno. Grazie Mario Platero in collegamento con noi da New York, con un leggero ritardo, ma l'abbiamo ottenuta per forza di cose e volontariamente. Per ultima, la borsa. Occasione sprecata, domani saranno poi questi i titoli dei giornali, oppure Milano, nulla di fatto. Perché? Perché Piazza Affari ha perso il 2,35% alla fine, guadagnava oltre il 3% questa mattina, è arrivata in parità a mezzogiorno, poi le borse europee fermamente negative, Parigi ha sempre perso e Francoforte hanno sempre perso intorno al 2% anche in mattinata, e il colpo finale di Wall Street, che apre subito negativa, adesso perde il 2,5%, hanno fatto chiudere così Piazza Affari. Ripeto, mal comune mezzo gaudio è difficile da usare in questi casi, ma Francoforte perde il doppio, il 5%, un tonfo pesantissimo, pesante, molto pesante anche Parigi, meno 4,70%, Londra meno 3,40%. Sembra paradossale, ma con un meno 2,35% Milano è la migliore. I titoli positivi, c'è il Banco Popolare che guadagna l'1,84% e la Popolare di Milano che guadagna l'1,60%, c'è Telecom Italia più 0,40%, Unicredit più 0,40%, Enel più 0,30%. Qui ci fermiamo e soprattutto fa notizia il calo di Fiat e di Pirelli. Fiat meno 10, Pirelli meno 10. Andrea Fontana, come mai? Buonasera. Colpiti soprattutto i ciclici, colpita soprattutto l'auto, il discorso che faceva Mario Platero in precedenza sul timore della recessione, quello che ha tenuto banco. Doppia recessione, se continuate ad evocarla vi mando un altro gufo e sarebbe il secondo della puntata, mi raccomando, doppia recessione. Andrea. Però analisti, trader, esperti oggi si sono focalizzati un po' più avanti che sui problemi del debito. Una brusca frenata dell'economia andrebbe a impattare duramente, Merrill Lynch è stata la prima tra i tanti a sottolinearlo oggi, in particolare sugli industriali. Ecco perché il settore auto in tutta Europa è stato veramente il peggiore, ha perso quasi l'8% l'indice europeo dell'auto, listini quasi fotocopia a parte per le dimensioni, in Francia come in Germania, come in Italia, l'auto e il settore industriale più legati ad esempio al petrolio e il nostro e per quanto riguarda noi Saipem e Tenaris sono state quelle più penalizzate. Fiat Industrial ha perso oltre il 10, Pirelli il 10,36. Fiat invece ha perso il 9,6%, quindi le prospettive economiche sono quelle che hanno fatto perdere il settore auto. Andiamo sulle novità, che sono i titoli che più guadagnano. Telecom Italia più 0,40%, devo dire un po' di effetto dell'annuncio della Banca Centrale Europea che avrebbe comprato titoli di Stato eventualmente italiani e spagnoli c'è stato sulle banche, Intesa perde poco, lo 0,15%, Monte dei Paschi meno 0,22% e poi Mediobanca meno 1,24%, la peggiore tra le banche è UbiBanca meno 4,4% e Telecom. Sì, certamente l'effetto c'è stato perché Madrid e Milano, diciamo in termini relativi, sono state le due borse migliori, meno 2,3% Milano come dicevi tu, meno 2,4% Madrid. Per quanto riguarda invece Telecom Italia, ancora l'effetto di una trimestrale positiva, quella pubblicata venerdì, ha guadagnato lo 0,4%, un risultato definito incoraggiante un po' dal mercato l'andamento della trimestrale, ma c'è da dire che anche il settore oggi delle telecomunicazioni è stato tra i migliori perché alla fine ha perso solo il 2% a livello di indice europeo e Telecom, come anche Deutsche Telekom in Germania, si sono difese bene. Ancora volete vedere i migliori e i peggiori e in borsa? Allora, migliore Richard Ginori più 6,83%, poco altro. Ratti più 5,21%, Cape List Investment più 7%. I peggiori, AF meno 16%, poi pesanti oggi finanziari in generale. Fiat comunque anche sul risparmio perde il 15%, P-Quadro meno 12,7%. Novità su P-Quadro? No, non ci sono novità particolari, diciamo che oggi anche appunto il settore che riguarda il retail finisce per essere penalizzato. TOZ perde l'8,80, Saipem tu la ricordavi, io vorrei ricordare invece oltre che Exol meno 6,70 anche due società che gestiscono il risparmio come Azimut meno 6%, è pesante il calo anche su Azimut Mediolanum meno 4,91%. Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, grazie. Grazie a voi. E siamo in conclusione. Insomma, mi sembra un inizio settimana di quelli in salita. L'unica buona notizia, scherzando, è quella che scrive un ascoltatore. Pensavo che fosse lei che portava sfiga, invece era in ferie le scorse due settimane. Vede che poi i conduttori possono poco. Noi ci risentiremo domani. Focus Economia, infatti, durante e fino alla terza settimana di agosto, termina alle 18, domani con un'altra puntata. Da Sebastiano Barisoni intanto l'augurio di una buona serata. Radio 24, La passione si sente.